Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria restano sullo sfondo i temi di questi ultimi 2-3 giorni. A questo punto c'è chi inizia a pensare, dentro il governo, ma non solo, che vi sia un'operazione quasi di concerto francese nei confronti dell'Italia, perché dopo, ne abbiamo parlato anche ieri, dopo Bulgari, dopo la vicenda Edison che è ancora tutto in corso con i francesi di EDF, che vorrebbero a questo punto rilevare anche la quota in mano a Milano-Brescia, cioè A2A, oggi su Parmalat, mentre il governo sta discutendo e immaginando una legge, fare shopping legislativo, come ha detto Tremonti, che protegga alcuni settori italiani strategici, per esempio l'agroalimentare e per esempio Parmalat, nel frattempo, mentre noi discutiamo o leggiamo fondi anche interessanti, i francesi hanno siglato un accordo per acquistare tutte le quote dei fondi esteri soci di Parmalat, ossia il 15%. Il prezzo è 2,8 euro per azione. E in questo modo Lactalis, il colosso francese del settore lattiero-caseario, ma non solo, è arrivato già al 29% di Parmalat. La cordata cosiddetta italiana, in realtà quella guidata da Intesa San Paolo, ha raccolto una disponibilità di massima del gruppo Ferrero, però per ora ha il 2,2% del capitale, quindi siamo 29% contro 2,2%, il resto è distribuito. La sensazione della borsa, perlomeno, è che la partita Parmalat sia già chiusa. Perché lo dico? Perché il titolo perde il 7% e quindi non, la borsa non sta immaginando una contro-opa, una controfferta della cordata italiana. Il titolo è il peggiore oggi tra quelli a maggiore capitalizzazione, e quando un titolo cala così è perché si ritiene che ormai la partita sia chiusa. Certo, i francesi stanno sotto la soglia del 30%, per cui non sono in obbligo di offerta pubblica di acquisto, altrimenti avrebbero dovuto offrire 2,8 euro a tutti gli altri, però hanno la maggioranza, seppur relativa, della società. Male anche Prismia, meno 2,70, Fondiera S.A. meno 2,7%, lì invece c'è l'ipotesi più che di Groupama, altro gruppo francese che avrebbe dovuto salvare il gruppo di Salvatore Ligresti, e l'ingresso di Unicredit che perde lo 0,90. Va molto male Milano Assicurazioni, meno 8,65% dopo i conti presentati oggi. Ma al di là della borsa, di cui parleremo come sempre più avanti, resta il tema. Poco fa ha parlato il ministro Romani, ha detto appunto: mi auguro che ci sia l'accordata italiana su Parmalat. E di nuovo le varie reazioni, poi le leggeremo, della CGIL, della CISL, del ministro Brunetta, insomma di questo shopping francese nei confronti dell'Italia, si stanno comprando pezzi del paese. Altri dicono invece: attenzione, lo fanno solo perché hanno la possibilità, le dimensioni e la forza, e perché la Francia ha avuto in questi anni una politica industriale, ha creato i grandi gruppi, il governo ha fatto da così arbitro e anche stimolatore con la moral suasion, e noi invece no, e quindi noi ci troviamo in tanti e parcellizzati, divisi. La Francia ai grandi gruppi, quindi giustamente va a fare shopping in Italia nelle aziende più interessanti. Ne parleremo brevissimo, e anche nella seconda ora del programma. Invece registro oggi, adesso ve le faremo ascoltare, alcune dichiarazioni del governo, che ha chiesto una moratoria sostanzialmente sul nucleare per un anno, e quindi, come avevamo immaginato dopo le prime dichiarazioni un po' avventate, se permettete, del ministro Prestigiacomo, che con tsunami appena terminato e terremoto appena terminato disse la politica italiana nei confronti del nucleare non cambia, adesso invece è cambiata anche ufficialmente: un anno di moratoria, di sospensione di ogni dibattito sul nucleare. E ancora la borsa, dicevamo, va male su questi titoli, va bene invece per quello che riguarda Ansaldo STS. Ha vinto una gara importante il gruppo Ansaldo STS e il gruppo Finmeccanica in generale alle Hawaii, a Honolulu, per la metropolitana di Honolulu. E Enel, diciamo Ansaldo più 3,80%, Popolare di Milano più 1,20%, Enel più 1,20%, Fiat più 1,20%, Terna più 1%, Generali più 1%, bene anche Eni e Saipem, lo 0,80% di rialzo per tutti e due i titoli. Parleremo anche appunto della vicenda generali, ma prima di tutto le notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri SMS. Allora, le altre borse come vanno? Francoforte meno 0,60%, l'America invariata, Londra meno 0,40% e questa mattina Tokyo aveva chiuso in rialzo del 4,3%, Hong Kong più 0,80%. L'oro però continua a salire, $1,431 l'oncia, il petrolio apre in calo dello 0,7%, $101 al barile. E ancora, per quello che riguarda il mondo dell'energia, la tedesca Wintershall comprerà il 15% del gasdotto South Stream, lo prenderà da Eni, la cui partecipazione potrebbe ridursi ulteriormente anche sotto il 25% a oggi, già prevedibile dopo questa operazione. Lo hanno scritto due autorevoli giornali russi, fornendo dettagli sulla conferma data ieri dal premier russo Vladimir Putin. Tra l'altro, mentre l'Eni, faccio notare che ha avuto una produzione petrolifera che si è ridotta di 500.000 barili al giorno a causa del completo stop delle operazioni in Libia, l'Eni ha una produzione complessiva di quasi 2 milioni di barili al giorno, è quasi un quarto in meno, anche perché le concessioni dell'Eni in Libia per lo sfruttamento di gas e petrolio vanno fino al 2042. Dicevo del ministro Romani, ma ne parleremo nella seconda ora del programma sul nucleare, la moratoria di un anno che domani andrà al Consiglio dei Ministri. Lasciamo il nucleare alle 18 e invece continuiamo con i mercati. La Bank of Japan ha iniettato altri 18 miliardi di euro a sostegno dei mercati giapponesi. Toyota e Honda hanno rinviato la ripresa della loro produzione, chiaramente chiuse le fabbriche a causa della scarsità di pezzi di ricambio dopo il terremoto e lo tsunami dell'11 marzo. La Sony ha dichiarato che sospenderà per tutto il mese di marzo la produzione negli stabilimenti giapponesi che producono videocamere digitali, macchine fotografiche, microfoni e televisori. Anche in questo caso non sono gli stabilimenti di assemblaggio, ma è la mancanza di pezzi, di componenti, di materie prime che bloccano gli stabilimenti, questo a causa chiaramente del sisma dell'11 marzo scorso. Il Fondo Monetario Internazionale stima che con un prezzo del petrolio tra i 105 e i $110 al barile, quello di adesso, la crescita economica sarà moderatamente più bassa e che comunque l'agitazione in Nord Africa possono creare rincari sulle materie prime, devo dire grazie al Fondo Monetario Internazionale, ma ci eravamo arrivati anche noi, e che la ripresa italiana è debole, pesa il problema della competitività, noi restiamo agli ultimi posti nell'area euro come crescita economica attesa nel 2011, l'1%, peggio di noi solo Grecia, Portogallo, Irlanda e Spagna. La Alstom Trasporti, gruppo francese, taglierà 280 posti di lavoro in Italia, questa è una brutta notizia, che si inserisce in un piano di tagli all'organico di Alstom di 700 posti in Germania, 400 in Spagna, appunto 280 in Italia, per un totale di quasi 1400 posti di lavoro in meno. Ancora per quello che riguarda Italia e la cultura, sapete che Radio 24 sta compiendo un viaggio tutta la settimana sui teatri italiani e devo dire che l'accoglienza è più che buona. Italia e la cultura, 560 milioni in meno quest'anno e 3 miliardi tra 2008 e 2013. Il Fondo Unico per lo Spettacolo, FUS, scende da 258 a 230 milioni di euro, ma 27 milioni sono congelati in attesa di conoscere l'esito dell'asta sulla frequenza TV. Per la tutela del patrimonio stanziati 102 milioni di euro contro i 148 del 2010 e, come sta avvenendo ormai da giorni, il mondo della cultura e dello spettacolo scende in campo per informare tutti i cittadini della crisi senza precedenti che tra tagli e vuoti legislativi sta mettendo in ginocchio l'intero settore. Allora, l'evento è promosso da tutti, c'è Federculture, che è l'associazione di Confindustria del settore, Agis, Anci, UPI, Conferenza delle Regioni e FAI, fondamentale italiano, oggi presentata dal presidente dell'Agis Paolo Protti, dal presidente di Federcultura Roberto Grossi. Si aprirà il 23 marzo con la manifestazione in difesa della danza a piazza Montecitorio, e poi il 25 marzo coinciderà con lo sciopero generale dei sindacati della produzione culturale. Praticamente chiuderanno tutti i teatri, anche a Roma 40 teatri chiusi. Il nostro Vincenzo Miglietta ha sentito il presidente di Agis Paolo Protti sulle preoccupazioni di questi tagli. Preoccupazioni sono tante, perché in questo momento non ci sono fondi per sostenere i teatri, la musica, e soprattutto ci sono una tassa odiosa per il cinema, e quindi è l'intero comparto del mondo dello spettacolo, che agisce a livello della cultura, che viene messo in crisi. Manca un disegno di sostegno, e questo ci crea particolarmente apprensione, perché si va a colpire un'economia diretta e anche indiretta fondamentale per il paese, sia a livello culturale, ovviamente, perché questo è l'ambito in cui lavoriamo, ma anche a livello di massa di lavoro, di lavoratori e anche di indotto. Noi produciamo molta economia. Se questa viene messa in crisi, si va a appesantire la situazione economica italiana. E sempre sul tema, mi raccomando, noi non abbiamo una debolezza per la cultura, però quando ci sono tagli ai settori, tutti i settori sono uguali, che si chiamino alimentare, che si chiamino siderurgico, che si chiami delle quattro ruote, automotive, o che si chiami settore culturale, anche quello produce redditi e produce PIL, no? Allora, Federculture, rappresentato dal presidente Roberto Grossi, sempre al microfono il nostro Vincenzo Miglietta, spiega qual è il settore più in crisi rispetto ad altri nel mondo culturale, chiaramente. Guardi, non c'è dubbio che il settore dello spettacolo, che ha ricevuto un taglio di oltre il 40%, non potrà nei prossimi mesi garantire l'apertura di, parliamo di teatri, parliamo di fondazioni liriche, parliamo di tutti gli operatori dello spettacolo. Però non dimentichiamoci anche che la stessa attività di tutela sancita dalla Costituzione è a rischio. Il bilancio del Ministero dei Beni Culturali è arrivato allo 0,18 di tutto il bilancio dello Stato, quindi è una cifra veramente non in grado di garantire le funzioni minime di presidio attraverso le sovrintendenze, attraverso le direzioni generali del nostro patrimonio, delle nostre bellezze. Quindi per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, quello che sta succedendo riguarda tutti i settori economici e produttivi della cultura, quindi non solo il FUS, ma anche i beni culturali, le biblioteche, gli archivi, le stesse politiche pubbliche che fanno i comuni sono messe in discussione. Quindi ci troviamo di fronte a uno scenario di collasso totale di tutti i settori della vita e dell'attività culturale del paese. Un'ultima notizia prima di partire col primo tema, ossia Parmalat e la calata francese in Italia. Ed è una buona notizia: sono caduti tutti gli ostacoli al riconoscimento da parte della Cina dei primi due prodotti di alta qualità nell'agroalimentare italiano, ossia il grano padano e il prosciutto di Parma. L'ho detto a Shanghai il commissario europeo agricoltura Dacian Ciolos, e quindi i cinesi non si oppongono più al processo di registrazione reciproco di 10 prodotti DOP e IGP europei, tra cui per l'Italia appunto grano padano e il prosciutto di Parma. Questa buona notizia che riguarda il settore agroalimentare e la tutela appunto dei prodotti di qualità italiani non riesce però a riequilibrare quella che, non dico che sia una brutta notizia, ma insomma un altro pezzo d'Italia da un punto di vista economico rischia di andarsene, si chiama Parmalat. Des yeux qui font baisser les miens. Eh sì, ormai si ragiona quasi di complotto. Perché? Perché su Parmalat i fondi sono saliti al 29% e sono di gran lunga. I fondi, Lactalis comprando le quote dei fondi, è salita al 29%, Intesa al 2%. Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, dice: l'Italia è paese scalabile, non ha politiche. Il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, aggiunge: il governo deve fermare questo shopping straniero e difendere le imprese. Il ministro Sacconi ha chiosato le attività strategiche devono restare italiane, il ministro Romani ha detto mi auguro che ci sia una cordata italiana e poco fa il presidente di Granarolo, Giampiero Calzolari, ha detto spero non sia tardi per una cordata italiana su Parmalat. Allora parliamone innanzitutto con il corrispondente su 24 ore dalla Francia, Marco Mussanè, in collegamento da Parigi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, primo dubbio, poi i vari passaggi li abbiamo raccontati, li racconteremo nella loro parte più tecnica, ma insomma qui poco fa ha parlato anche il ministro Romani, ha detto, il ministro dello sviluppo economico, ha detto mi auguro che ci sia una cordata italiana su Parmalat, però la sensazione è che vi possa essere un disegno, prima Bulgari, nel frattempo Bolloré sulle generali, e ancora adesso la volta di Lactalis e quindi di Parmalat, per citare i casi appunto più recenti, molti ricordano sullo sfondo anche l'Italia e altre vicende, e questa voglia francese di essere protagonista in Libia. C'è secondo te un concerto, un'operazione di sistema, oppure si tratta di coincidenze temporali? A mio parere si tratta assolutamente di coincidenze temporali, non esiste alcun disegno, anche perché parliamo di situazioni molto diverse tra loro. Questo vale anche per Edison, giustamente fanno notare gli ascoltatori, ed EF che vorrebbe a questo punto prendere controllo completo di Edison. Prego. Se volete, secondo me quello che è opportuno fare forse è un minimo di scenario. Volentieri. Perché si parla tanto di difesa di settori strategici, il problema è che per difendere i settori strategici bisogna innanzitutto avere una strategia. La Francia questa strategia l'ha avuta, cioè, poi ovviamente si può discutere di patriottismo economico, di protezionismo, di ruolo dello Stato, possiamo discutere di quello che vogliamo, ma su una cosa non c'è dubbio, che la Francia è un paese che tanto tempo fa, negli anni 50-60, ha deciso che esistevano alcuni settori fondamentali per lo sviluppo del paese, sui quali investire e nei quali cercare di costruire dei grandi gruppi, quelli che loro chiamano i campioni nazionali, poi diventati con il tempo anche campioni internazionali. Per cui ci sono, come dire, vari aspetti nella struttura economico-finanziaria, politica, in termini di politica industriale francese. Uno è quello dell'aver costruito grandi gruppi, loro li hanno e noi no, e quindi mi sembra abbastanza evidente che quando un grande gruppo che ha molte risorse finanziarie vuole comprarsi un piccolo gruppo, di solito se lo compra. La seconda caratteristica è la forte internazionalizzazione. I gruppi francesi sono, almeno i grandi gruppi, sono fortemente internazionalizzati da molto tempo, hanno già fatto in tempo in qualche modo a consolidare la loro presenza sui mercati internazionali e soprattutto sui grandi mercati emergenti. L'Italia su questo fronte, le imprese italiane sono molto in ritardo, è evidente che oggi le aziende francesi sono in grado di garantire a una media azienda italiana degli sbocchi di mercato che da sola non potrebbe ottenere. Infine c'è il discorso del ruolo dello Stato. Certo, lo Stato francese ritiene che ci siano alcuni settori strategici di interesse nazionale da difendere, fondamentalmente tre, diciamo, l'energia, la finanza e la difesa, e un pochino di agroalimentare, perché ovviamente l'agricoltura da queste parti è un mito, però anche lì attenzione a non, come dire, confonderci, cioè il provvedimento, la legge anti-OPA di cui si parla tanto in Italia in questi giorni non esiste, cioè nel senso che in Francia non esiste, dice. Cioè esiste un decreto di fine 2005 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2005 e voluto dall'allora primo ministro Dominique de Villepin, ma riguarda settori molto particolari, cioè i settori sottoposti a previa autorizzazione governativa in caso di acquisizione da parte di un gruppo estero e in particolare dell'Unione, appartenente a un paese dell'Unione Europea, sono sette e sono dei settori molto specifici che riguardano la sicurezza nazionale e la difesa, la criptologia, i produttori di armi e munizioni, Cioè, non è che c'è una lista, come si è fatto credere in questi giorni dai giornali italiani, per cui c'è una lista in cui si dice l'energia, l'alimentare, appunto le banche, non so, l'elettronica, l'aeronautica, no? Questi settori non possono essere soggetti a acquisizioni da parte di aziende estere previa autorizzazione pubblica. Non è vero, non c'è, non esiste una legge di questo genere, anche perché non potrebbe esistere e perché andrebbe incontro alle sanzioni europee, normative, certo, europee. Mm-hmm. Cosa succede invece? Succede che quando, facciamo un esempio classico, quando a suo tempo, proprio nel 2005, PepsiCola fece capire di avere un interesse per Danone, il governo francese fece fondamentalmente due cose. Da un lato utilizzò le sue strutture, diciamo, di rapporto col mondo dell'agricoltura per invitare gli agricoltori francesi a sollevarsi di fronte a una prospettiva di questo genere. Dall'altro, come dire, garbatamente, discretamente, contattò il governo americano spiegando che questa non sarebbe stata una cosa vista di buon occhio in Francia. E la roba finì lì. Ma questo dipende dalla capacità che ha un paese di avere, di poter fare della moral suasion, di poter esercitare delle pressioni che normalmente i paesi esercitano in situazioni di questo genere. Ecco, questo, no, giusto per capirci un attimo, solo un ultimo punto, senza dimenticare in tutto questo che, se non vado errato, a suo tempo l'Italia congelò i diritti di voto di EDF in Edison, se non ricordo male al 2% rispetto a una quota di capitale di poco inferiore al 50%, con un'operazione che, come dire, definire di patriottismo economico mi sembra il minimo. E quanto a Bulgari, lo stesso Trapani, amministratore delegato di Bulgari, ha più volte dichiarato che loro hanno cercato per anni un appoggio italiano e cercare una prospettiva italiana per crescere. Non l'hanno trovata. No, su questo abbiamo sentito il numero uno di Bulgari, Trapani, lo rifaremo sentire anche più avanti, e ci ha detto esplicitamente: noi abbiamo cercato di fare il polo del lusso, ma poi in realtà quelli che abbiamo contattato in Italia, che pure ha dei marchi del lusso importantissimi, non erano disponibili a rinunciare al controllo, e quindi se tutti vogliono il controllo non se ne fa nulla. No, ma è importante quello che tu hai ricordato, Marco, ossia non esiste una legge, perché sarebbe antieuropea, contro le scalate. Esistono alcuni settori definiti strategici ma molto molto specifici, la produzione di armi di altissima tecnologia, e questo vale anche per altri paesi. E poi lo Stato ha deciso che esistono dei settori strategici che si chiamano energia, sostanzialmente finanza, difesa e un pezzetto di agroalimentare. E su questo però, quando si muove più, come tu ricordavi, con una moral suasion, cioè creando la cordata, invitando i gruppi ad unirsi o addirittura facendoli fondere, perché ricordiamo anche quando Enel voleva comprare Suez in sostanza, per evitare l'acquisto di Suez, la Francia fece fondere Gaz de France con Suez, creando un boccone così grosso da essere immangiabile, da essere indigeribile. Però diciamo è più fatto come lavoro politico che non normativo, se ho ben capito. Allora, ci ha raggiunto il collegamento anche Marco Nado, che è editorialista del Sole 24 Ore, insegna economia degli intermediari finanziari all'Università Bocconi di Milano. Buonasera, professore. Buonasera a tutti. Lei ha ascoltato l'ultima parte del ragionamento di Moussanet. Insomma, se posso forzare un po' il ragionamento, noi stiamo creando uno spettro, o abbiamo una visione dietrologica, in un paese che in realtà ha avuto la capacità di darsi delle priorità di politica industriale in questi decenni. Ha grandi gruppi nel settore della difesa, dell'aerospazio, dell'alimentare, del lusso, anche nel mondo bancario e dell'energia. Ma anche noi difendiamo l'ENI, difendiamo Finmeccanica, difendiamo Enel. Ma oltre questo, diciamo, il resto lo fa l'attività politica e la capacità di un paese, insomma, di darsi degli obiettivi. È d'accordo, oppure in realtà in Italia bisognerebbe comunque pensare, visto il tipo di capitale italiano, visto il tipo di industria, a una legge in qualche modo, non dico anti-op, ma che mettesse a riparo alcuni settori dallo shopping straniero, non solo francese? Ma io credo che tutte le volte che abbiamo invocato il mito dell'italianità, se si è arrivati a soluzioni di compromesso e poco efficienti nel medio termine. L'italianità è un concetto, nazionalità insomma, in economia è un concetto abbastanza estraneo a quello dell'efficienza delle imprese, yeah, alla loro capacità di stare nel mercato. Soprattutto perché nel caso italiano cerchiamo di difendere la nazionalità con le cordate, perché nessuno vuole metterci tutto il piatto della posta, e fatalmente si creano delle situazioni che seguono le logiche del capitalismo relazionale e quindi devono accontentare gli equilibri del piano di sopra fra gli azionisti più che la massimizzazione del valore dell'azienda. Alcuni dicono: mamma mia, stanno calando i francesi. Vedo dichiarazioni fortissime. Poco fa ha parlato di nuovo il presidente di Granarolo, Calzolari, che ha detto: attenzione, Lactalis, i francesi oggi sono arrivati al 29% di Parmalat, quindi il mercato scommette che la partita sia chiusa, il titolo perde il 7%. Ci potrebbero essere problemi di antitrust, ha detto Calzolari. Noi siamo pronti come Granarolo a mettere non i soldi ma gli asset. Detto ciò, al di là della vicenda Parmalat, qui le vicende si chiamano Edison, Parmalat, addirittura Gruppo Amalento Frontiera SAI, Bolloré e quindi la vicenda Mediobanca Generali, Alitalia che prima o poi alcuni dicono diventerà totalmente di Air France. Insomma, lo shopping continua, Bulgari che se n'è appena andata dentro il gruppo Louis Vuitton Annecy. Allora torniamo sul tema e su come difendere il nostro modello di capitalismo, se ha senso difendere il nostro modello di capitalismo. Perché la domanda che vorrei fare a Marco Nado è di nuovo questa. Io capisco che sia sbagliato la legge che protegge, la legge anti-Opal, quella a cui sta pensando il ministro Tremonti, ma se il nostro capitalismo è fatto così, è fatto di bravi e bravissime aziende, piccole e medie, bravissime a fare i terzisti, a esportare, di multinazionali tascabili, anche queste bravissime, con marchi forti, che sono presenti in vari mercati, di pochissimi grandi gruppi, a parte quelle partecipate dallo Stato e la Fiat e Telecom, sono veramente pochi. Beh, non è il caso, professor Nado, di difendere questo processo di transizione. Insomma, da noi il 97% delle imprese ha meno di 50 dipendenti. È chiaro che uno può anche pensare a una protezione mentre cambia, mentre si adatta al sistema, mentre si rafforza, mentre lentamente andiamo in porto anche noi qualche aggregazione. Non è cresciuta più debole rispetto agli altri perché si soffiava il vento polare, è cresciuta più debole rispetto agli altri perché ha voluto crescere così. Quali sono le garanzie, insomma, in base alle quali fanno pensare che questa volta si cambi? Io francamente ero scettico prima e sono sempre più scettico. Sì, ieri però con Alessandro Paterotti, vice direttore del Sole 24 Ore, si ragionava anche su quello che è la difficoltà. Lei dice non è che ci fosse il vento polare, però crescere in un ambiente arido o in cui piove poco, in cui hai un insieme di elementi non competitivi, costi della burocrazia, la tassazione, i costi dell'energia, l'articolo 18 per alcuni versi, insomma, forse sono anche cresciuto in un ambiente poco, così, poco competitivo per le imprese, poco amico della crescita imprenditoriale, per cui va anche tenuto conto che la pubblica amministrazione francese è un gioiello, visto che si parlava di gioielli, quella italiana, mettiamola così, un po' meno, per cui forse non si può dare tutta la responsabilità alle imprese, professor Nado. Non credo che il problema di Parma, di questo stiamo parlando, sia quello della burocrazia, abbia pazienza, perché altrimenti ogni volta diventa una fuga in avanti. Il problema è molto semplice. Impresa in cui il patrimonio è stato dilapidato, punto. Sì, mi riferivo anche a Bulgari. È stata risanata da un'azione molto attenta del commissario straordinario e poi amministratore delegato, cioè Bondi, che è stato in qualche modo vittima del suo successo, perché la liquidità che ha creato e che ha lasciato dentro l'azienda è appetita da altri imprenditori. Francamente, perché non si fanno avanti direttamente degli imprenditori italiani? Non credo perché la burocrazia italiana è ottusa. Ecco, questo ragionamento secondo lei vale anche per Bulgari, vale anche per Mediobanca o Generali in questo caso? Ma è quello il nostro problema, non la burocrazia che non funziona. Marco Mussanè, su questo, dopo l'ultima uscita di Sarkozy sulla Libia, quindi aver guidato l'attacco vero e proprio, essere in prima linea nella coalizione anti-Gheddafi, c'è chi dice che questa è la conferma che c'è un disegno complessivo della Francia per scalzare l'Italia anche in quello che era un rapporto privilegiato di carattere energetico con la Libia. Tu ci confermi che invece un disegno non c'è? Guarda, mi sembra un sacco di stupidaggini che di solito riusciamo a inventarci per cercare di nasconderci dietro i problemi veri che il paese ha in termini strutturali da sempre. Per cui neghi che vi possa essere, insomma, un approfittarsi? Per cui penso semplicemente che dovremmo smetterla di piangerci addosso e di accusare gli altri di volerci del male e provare ad affrontare e risolverci i problemi da soli. Cioè, abbiamo passato 20 anni in questo paese, 30 anni con la retorica del piccolo e bello, e poi scopriamo che le nostre imprese sono troppo piccole. Abbiamo passato 40 anni a fare politica occupandoci di tutt'altro anziché di politica industriale e di politica economica. Oggi raccogliamo i frutti di quello che è stato seminato, non possiamo prendercela sempre con gli altri. Vedo che anche gli ascoltatori su questo in parte vi danno ragione. Grazie al corrispondente Sole 24 Ore da Parigi, Marco Mussanè. Grazie anche all'economista e editorialista Sole 24 Ore, Marco Nado. Buonasera a tutti. Grazie a voi. Se alcuni di voi vogliono sapere al 349-238-6666 ma quali sarebbero i problemi, un calo occupazionale, una chiusura degli impianti italiani, no, assolutamente no, su Bulgari no, ma nemmeno su Parmalat, immagino. Cioè, il problema è più, insomma, se interi pezzi di questo paese se ne devono andare all'estero. Poi i problemi un po' ci sono, perché quando chiaramente Carrefour si compra PAM, è chiaro che piazza i prodotti, i formaggi francesi sugli scaffali. È inutile continuare a nascondersi il fatto che la Francia riesca a vincere nella lotta dell'agroalimentare, non solo perché ha i prodotti agroalimentari, noi li abbiamo anche più buoni delle volte, ma perché ha la distribuzione, che si chiamano supermercati, grandi catene, grandi centri commerciali, Auchan, Carrefour e quant'altro. E noi no, e loro dove li piazziamo le caciotte, i pecorini di ottima qualità? Di nuovo in diretta, vedo che c'è anche chi scrive: beh, meglio i francesi che i cinesi, per carità. Però insomma, meglio anche riflettere una volta tanto sulle politiche industriali. Io ricordo qualcuno tempo fa, forse anche Giuseppe Cruciani, diceva: ma a cosa servono le politiche industriali, il ministro dello sviluppo economico? Servono appunto avere anche in questo caso, quando hanno avuto i francesi, qualche idea di dove si vuole andare nei prossimi 15-20 anni. Per cui appunto la Francia ha deciso che telecomunicazioni, aerospazio, difesa, energia inteso come gas, fonti alternative, energia elettrica e alcuni meccanica di precisione e agroalimentare, queste, come ricordava prima Marco Mussanè, queste cose sono settori strategici e quindi non si toccano, e la finanza chiaramente non si toccano, e quindi si cerca di farli aggregare per farli diventare troppo grandi da essere comprati. Comunque adesso c'è la borsa. Borsa che oggi riflette molto i temi che stavamo affrontando. Da un lato c'è Parmalat, meno 7%, Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Chiudiamola qui con Parmalat. Il mercato scommette che ormai Lactalis abbia chiuso quasi la partita, mi sembra di capire. Esatto, nonostante sia in corso ancora la conferenza di Granarolo e nonostante... Sì, ma quello che è uscito, te lo dico perché ho appena visto, dice infatti Calzolari che lui non mette i soldi, può mettere gli asset, ma insomma non non c'è una controppa, ecco, questo voglio dire. Prego. Sì, di sicuro, come hai detto tu, il mercato scommette che i giochi siano chiusi e per questo ha provocato uno scivolone del 7% delle azioni, proprio a dimostrazione che essendo chiusi i giochi non ci saranno colpi di scena e non ci sarà più quindi una guerra in vista dell'assemblea. Tutto comunque da vedere, di fatto la borsa ha fatto scivolare le azioni a 2,29 euro, livello ben distante dai 2,8 euro pagati dall'Actalis ai soci, ai fondi che hanno venduto appunto i titoli. Una nota per inciso: non ho mai detto che nei negozi Carrefour non vi siano prodotti italiani, ho detto semplicemente che, ci mancherebbe, vado al supermercato e vado anche in quel supermercato, però ho detto semplicemente che quando tu controlli, come fa la Francia, i colossi della distribuzione, Auchan e Carrefour, a livello europeo, è chiaro che è un canale privilegiato anche per i tuoi prodotti agroalimentari negli altri paesi. Tutto qua. Noi invece riusciamo a vendere in Italia bene, abbiamo difficoltà sull'estero perché ci mancano i canali distributivi, vale anche per il vino. Comunque, chiusa la parentesi, Prismi al meno 2,81%, qui c'è l'antitrust del Brasile che interviene. Esatto, l'antitrust del Brasile ha infatti sollevato un'indagine sul settore dei cavi e ha avviato una serie di procedimenti contro varie società, tra le quali la stessa Prismian. A questo punto si teme un'ammenda per il gruppo che potrebbe essere pari al 30% del fatturato in Brasile, gli analisti hanno stimato intorno a 100 milioni. Ancora invece, buona la notizia per Finmeccanica, lo so, molti scrivono, i nostri grandi gruppi sono tutti partecipati dallo Stato, no, c'è anche Fiat, c'è anche Telecom, adesso vado a mente, e c'è anche Prismian, che non è così grande, ma è un gruppo molto, molto importante, però è vero che quelli che si battono a livello, diciamo, delle dimensioni francesi si chiamano Eni, con tutte anche le controllate, Snam, Saipem, Enel, Terna e Finmeccanica con le sue controllate, questo è vero, non c'è niente da dire. Finmeccanica ha vinto la gara da 500 milioni di euro per il metro alle Hawaii, immagino che sarà un metro, diciamo, molto molto solare, prego Eleonora. Sì, ad Honolulu in particolare verrà realizzata una linea della metropolitana dalle controllate Ansaldo STS, che non a caso è salita del 3,68%, e da Ansaldo Breda. Ansaldo STS che ha avuto la maggior parte del beneficio almeno in borsa, visto che dei 574 milioni di dollari di commessa, 367 andranno appunto alla controllata. Sì, Ansaldo STS fa la segnaletica sui binari e ha vinto appunto la gara a Honolulu. Ansaldo Breda invece fa appunto la parte dei vagoni. È un progetto interessante perché è una metropolitana senza autista, driverless. Mezzo miliardo, non poca roba. Andiamo avanti, la vicenda Generali che sta diventando con sempre più intricata, perché per il presidente Geronzi è tutto chiaro e scritto in bilancio, per Diego Della Valle. Diego Della Valle invita a fidarsi solo di Giovanni Peresinotto e non delle stupidaggini dette in questi giorni. Sempre Della Valle dice: non facciamo film sulle possibili conseguenze in Mediobanca. Insomma, fanno ancora un rumore le dichiarazioni di Bolloré. Eleonora. Sì, proprio questa mattina, tra l'altro, Bolloré dalle pagine del Sole è tornato a polemizzare sull'opzione appunto che PPF ha per uscire dalla banca russa VTB. E praticamente c'è il rischio che Generali possa pagare 3 miliardi di euro. Bolloré infatti per questo motivo si è astenuto dal votare la scorsa settimana il bilancio 2010 della compagnia assicurativa e è tornato a polemizzare proprio su questo punto. E, d'altra parte, come hai ricordato tu, altri consiglieri di minoranza, anche lo stesso Diego Della Valle, invece si sono schierati a difesa dell'amministratore delegato. Quindi di sicuro c'è un confronto molto agguerrito tra i membri del consiglio di amministrazione e il mercato si interroga su quali saranno gli impatti. Il titolo in borsa è salito dell'1,3%. Sì, io ricordo che dopo le polemiche della Valle Geronzi, la polemica adesso di Bolloré, che ha una quota importante in Generali, perché, anzi in Mediobanca, quindi poi in Generali, perché per l'acquisizione di PPF fa parte dell'alleanza che le Generali hanno siglato per l'Europa dell'Est, la quota della Peter Kellner appunto il 49% della joint venture generali Peter Kellner vale oggi tra 2 miliardi e mezzo e 3 miliardi di euro, lo si è letto oggi in una nota proprio del gruppo generali. Ancora si sono saputi i compensi dei manager. Cesare Gironzi ha guadagnato da presidente nel 2010 2,3 milioni di euro, Giovanni Presinotto 1,8 milioni di euro, come Sergio Balbinò. Comunque torneremo su questo. Milano Assicurazioni, perché invece anche Fondiera Assai è un capitolo che resta aperto, o meglio, l'ipotesi Unicredito ha preso il campo dell'ipotesi Groupama per salvare il gruppo di Ligresti. Ma che è successo a Milano Assicurazioni? Milano Assicurazioni oggi ha pubblicato i conti che sono stati giudicati deludenti. La perdita è stata di 668 milioni, il mercato si attendeva un rosso inferiore o al massimo pari a 600 milioni. Inoltre le indiscrezioni di stampa hanno indicato che la stessa Milano Assicurazioni potrebbe fare un aumento di capitale di 300 milioni e Fondiaria Sai, che ricordiamo pubblicherà i conti domani, attorno ai 460 milioni. Tra l'altro nell'operazione dovrebbe essere annunciato anche l'ingresso di Unicredit nel capitale di Fondiaria Sai. Quindi i titoli soprattutto di Milano Assicurazioni si sono sgonfiati, primo per l'effetto conti, secondo per appunto l'ipotesi di aumento di capitale e terzo anche perché è venuta meno la speculazione. Fino a qualche giorno fa si continuava a supporre che Groupama potesse rilevare la controllata del gruppo Fondiaria Sai, adesso questa ipotesi sembra lontana, venire meno. Allora, altri titoli rapidamente: Fondiera Sai meno 2,14 dicevamo, Mediobanca meno 1,30, Atlantia meno 1,1, Fiat meno 1% come Telecom Italia di Assorin, Banca Popolare meno 0,90%, bene, oltre ad Ansaldo la Popolare di Milano più 1,5, Fiat Industrial più 1,5, Generali più 1,30 come Enel, l'1,20 la guadagna Terna, l'1% Saipem, ma anche Eni, Snam, Rete Gas, il peggiore in assoluto è Milano Assicurazioni e poi Parmalat, il migliore in assoluto si chiama Centrale Latte Torino, che ha guadagnato l'11,5%. Torneremo al tema dei francesi. Vedo che insomma, molti hanno scritto sul modello Parmalat e Cirio. Insomma, siamo anche stati noi a distruggere, o non noi, insomma, gli imprenditori di queste due aziende, a distruggere dei gioiellini. La Cirio aveva anche la Del Monte, produceva il 40% dell'ananas in conserva al mondo, aveva 12.000 ettari nelle Filippine, insomma, eppure tutto giocato in altri modi. Però ci sono dei settori che invece su cui il nostro paese ha ancora molto da dire, uno di questi è l'acciaio, che è tra l'altro sotto l'occhio dei riflettori perché stanno crescendo i prezzi delle materie prime dovunque, non solo nell'acciaio, ed è di oggi il calcolo dell'ufficio studi della Confartigianato, che ha stimato tra gennaio 2010 e gennaio 2011 un più 33% sulle materie prime complessivamente date. Pensate, cotone più 147%, gomma più 91%, stagno più 65%, frumento più 73%. Parliamo allora di acciaio perché la capitale italiana dell'acciaio si chiama Brescia, non è solo la capitale del Franciacorta. E domani se ne discuterà per la quarta edizione del Made in Steel. Eh sì, noi siamo il secondo produttore europeo dopo la Germania, 11° al mondo. E siamo anche il leader mondiale nel consumo pro capite di acciaio, non che ce lo portiamo a casa, ma diciamo perché lo usiamo per le nostre produzioni. Pensate che l'anno scorso dai nostri impianti sono uscite quasi 26 milioni di tonnellate di acciaio, il 30% in più del 2009, siamo ancora un 15% sotto i livelli del 2008 e il 70% dell'acciaio che viene prodotto in Italia se ne va verso l'estero, verso le esportazioni. Il che significa un vantaggio anche per i 37.000 addetti del settore, distribuiti in 27 gruppi siderurgici. I primi tre si chiamano nell'ordine Gruppo Riva, Gruppo Danieli e Gruppo Marcegaglia. Come va la produzione in Europa? Più 25%, più 15% a livello globale. La Cina è da Chemo, primo produttore al mondo, pensate, produce 626 milioni di tonnellate. noi ne abbiamo prodotti, ne produciamo 26 milioni, loro 626. Queste sono le proporzioni. Emanuele Morandi, amministratore delegato di Made in Steel, che domani apre i battenti alla Fiera di Brescia, e presidente di Cider Web. Buonasera. Buonasera, dottor Barisoni, grazie per l'ospitalità. Come ogni anno, c'è il Natale, c'è la Pasqua e c'è anche Made in Steel. No? E c'è il Vinitaly, che a me interessa, senza offesa, un po' più dell'acciaio, perché sa che ho una, anche se non lo sai, lo dico io, una passione per il vino. Ma detto questo, il più 30% dell'anno scorso significa che con il 2011 recupererete i livelli delle pre-crisi? Non ancora. In realtà la nostra manifestazione Made in Steel è biennale e 2 anni fa ci siamo lasciati proprio con all'interno di una crisi veramente molto profonda che ci ha, diciamo, sorpreso tutti per la rapidità e la profondità. Quest'anno, a distanza di 2 anni, abbiamo recuperato, ma non siamo ancora ritornati ai livelli del 2006-2007, che hanno rappresentato proprio il picco della nostra produzione. Stiamo vivendo, diciamo, una crisi dal mio punto di vista più strutturale che non congiunturale, e soltanto coloro diciamo che hanno lo specchietto retrovisore possono pensare che questo sia soltanto il momento diciamo ciclico, e che a distanza di qualche mese o di qualche anno si possa recuperare. In realtà si riuscirà a recuperare, però la crisi che stiamo affrontando è veramente di carattere strutturale. Capito, lei ha ragione, Morandi, però non si butti giù, perché il settore dell'acciaio ha fatto più 30% nel 2010. Siamo ancora un 15% sotto i livelli del 2008, però se fate anche un altro più 20 quest'anno, certo, Tornate ai livelli del 2008. Chiedo, perché magari... Sì, il picco in realtà l'avevamo toccato nel 2007 della produzione italiana. Però è proprio cambiata completamente il mix e la composizione, nel senso che sono in crisi nelle nostre economie occidentali settori quali l'edilizia, che ne fanno da traino, sì, certo, mentre invece sono ripartite tutte le produzioni legate al settore della meccanica e ai settori dove noi siamo leader, soprattutto nell'esportazione. Le aziende che esportano in paesi come la Germania eccetera sono riuscite a far fronte molto più velocemente alla crisi che non quelle che invece stanno soffrendo, che hanno producono prodotti a basso valore aggiunto e che servono soltanto il mercato italiano, e quindi questa crisi, diciamo, ha creato veramente una differenza tra due mondi. Però mi scusi Morandi, la Cina, che pur producendo 30 volte quello che produciamo noi, vado a spanne, come milioni di tonnellate, è anche il primo consumatore al mondo, perché assorbe il 44% dell'acciaio fatto nel mondo, quindi non riesce a essere un esportatore della Cina, pur producendo un'enormità di acciaio, un livello quasi inimmaginabile, ne importa il 44%, esatto, di tutto quello prodotto al mondo. Da lì non arrivano dei segnali positivi anche per voi? Diciamo che il mondo, la Cina è un mondo molto lontano, nel senso che produzioni, specialmente quelle, ripeto, a basso valore aggiunto, la produzione dei bresciani, tra quelli virgolettati, sono soprattutto tondo per cemento armato, vergelle, travi, che hanno un raggio massimo di esportazione dei 1000 chilometri. Noi non riusciremo mai a esportare in quei paesi, perché, diciamo, l'incidenza dei trasporti e della logistica è troppo alta. Le nostre aree interessanti dal punto di vista dei prodotti lunghi sono proprio l'area del Maghreb, appunto la Libia, piuttosto che paesi come l'Algeria. Andrei cauto sulla Libia, in questo momento non ci farei tutta questa scommessa sull'acciaio. In Libia in realtà non si è mai esportato molto, però si esportavano questi prodotti in Tunisia, Algeria e prodotti, diciamo... E lì si è fermato? Oppure sta riprendendo? Diciamo che si è rallentata molto con questi eventi di rivoluzione che hanno, però siamo abbastanza ottimisti per il futuro. La Libia invece ci crea un po' di problemi. Non solo a voi, glielo assicuro. Mi scusi, Morandi, un'ultima domanda. Il tema delle materie prime, prima ricordavo quanto sono cresciute nel 2010 le materie prime più svariate, dal cotone alla gomma, allo stagno, al frumento. È un problema anche per voi in quanto produttori? È un problema, è un problema che però ci riguarda, diciamo, in modo molto più limitato rispetto ad altre materie prime. Non so, il rottame, che è la materia prima fondamentale per produrre, diciamo, acciaio da forno elettrico, non ha ancora toccato i massimi dell'estate del 2008 da noi, mentre invece sta salendo molto, stanno salendo molto materiali come il coke, il minerale di ferro, che invece quelli dobbiamo assolutamente importarli. Allora, in bocca al lupo, lei ha fatto bene a correggermi, per l'edizione biennale di, quindi quella di quest'anno, la quarta edizione di Made in Steel, alla Fiera di Brescia, da praticamente domani. Da domani. E si conclude venerdì prossimo. Grazie Emanuele Morandi, che è amministratore delegato di Made in Steel. Grazie a lei, grazie dell'ospitalità. Buonasera. Prego. Promuoviamo un po' anche le nostre imprese, quando ci riusciamo. Adesso invece torniamo a ragionare sul paese che piange perché viene conquistato dai francesi, ma qui hanno scritto, ricordo un po' la favola della cicala e della formica, si piange quando ti sei occupato d'altro in questi anni, non hai fatto sistema, non hai fatto politica industriale, non hai fatto aggregazioni, anche alcuni imprenditori hanno le loro responsabilità, non vogliono tirare fuori i soldi per unirsi, per fondersi. O tout court non le vogliono tirare fuori. Con Grana Loro ha confermato oggi che se dovesse fare un'offerta per Parmalat la farebbe solo per dividere gli asset, non per mettere dentro soldi. Di nuovo la vicenda Parmalat, ormai sempre più vicina ai francesi di Lactalis. Come si difendono i settori strategici, ammesso che abbiamo capito in questo paese cosa è strategico. Per noi, professor Salvatore Bragantini, editorialista del Corriere della Sera, ex commissario Consob, buonasera. Buonasera a voi. L'anno preceduto, l'ha preceduto il collega Marco Nado, nella prima parte della puntata, il corrispondente dalla Francia Marco Mussanè, tutti e due hanno negato che si possa fare una legge per difendere dalle scalate degli stranieri le nostre aziende. La Francia non ha un complotto, non ha un concerto, semplicemente ha i grandi gruppi, e noi abbiamo fatto altro. Continua il nostro viaggio con vari riferimenti. Visto che di Parmalat parliamo, ricordiamo che da Ciro l'ha distrutta Cragnotti, la Parmalat l'ha distrutta Tanzi, non sono francesi né uno né l'altro, e in questi mesi, in questi giorni nelle sale c'è un film molto bello su questo, il Gioellino. Questa mia azienda non sarebbe pronta com'è a espandersi verso nuovi mercati, verso l'est, verso l'Europa liberata dal comunismo, se non avesse, oltre al prodotto, dei valori. Lunga vita alla Lega! Per stare nella serie A del capitalismo bisogna giocare a tre punte con il tridente: un giornale, una squadra di calcio e una banca. Mi serve una porta sulla linea Rocciove. E quando mi serve? Ma ieri. Questa sofferenza è momentanea. Leda è un gioiellino. Vendi una parte delle tue quote. Ma io non voglio vendere. Allora non venda. Così ci trascinerà a fondo. Così il modo di risalire lo trova sempre. Allora, com'è andata? I soldi non ci sono, Ernestino. Non ci sono più. Allora dove li troviamo? Li rubiamo, facciamo una rapina. Inventiamoceli. Entriamo in borsa. Ci facciamo sovrastimare il prezzo delle nostre azioni. Se lei avesse 1 milione di euro, chiederebbe un prestito per comprare una macchina. Ma dov'è che insegnano questi indovinelli? Alla Bocconi? Io non rubo la mia società. Ma che c'entri tu? Io sono il capo. Il Gioiellino è nelle sale in questi giorni, la ricostruzione chiaramente sceneggiata e romanzata della vicenda Parmalat e di come si distrugge un colosso agroalimentare, ma è anche i risparmi di molti azionisti. Però in questi giorni, Salvatore Bragantini, ne abbiamo parlato ieri con Romano Prodi, vorrei far sentire un passaggio di cosa ha detto l'ex Presidente del Consiglio in merito alla necessità, perché ha detto che è d'accordo con Tremonti sulla necessità di difendere i settori, le aziende strategiche italiane. Prendiamo il caso Edison ad esempio, o tanti altri casi simili. Noi abbiamo fatto delle privatizzazioni seguendo le regole imposte dall'Unione Europea, l'EDF e altre imprese francesi sono rimaste assolutamente monopolistiche col totale del mercato, vengono a far shopping qui. Allora in questi casi evidentemente un problema di

Ma allora, e fare una legge invece per le fusioni e le aggregazioni avrebbe più senso invece, che facilitasse o spingesse i nostri imprenditori? Sì, questo, noi siamo dei grandissimi individualisti. Questo certamente servirebbe, ma io credo che qualcosa c'è, ci dovrebbe essere molto di più. Secondo me è bene farlo. Detto questo, non ci dobbiamo illudere che risolva il problema di per sé, perché comunque la spinta a essere da soli, a comandare io a casa mia, comando io, che vuol dire che nessuno pone in dubbio le mie decisioni, che non c'è nessuno con cui le discuto queste decisioni, rende contente le famiglie proprietarie, ma alla lunga le condanna, perché chi non discute perde. Per cui lei dice, non è attraverso una legge che cambiamo questo atteggiamento? No, non lo cambiamo. Scusi, una legge aiuterebbe, però non... Io sono quasi in chiusura, però l'alternativa però cos'è, Bragantini? Che uno venga qua e si prende i pezzi migliori del paese, perché tanto le nostre dimensioni quelle sono. Lo so, d'altronde, se no dobbiamo uscire dall'Unione Europea. Però vede, qui la proposta, l'idea del ministro Tremonti mi sembra che sia quella di risolvere il problema nell'immediato con una legge che durerà che 2 anni e poi verrà abbattuta dall'Unione Europea, ma intanto hai evitato il problema, secondo me, immediato. Grazie anche a Salvatore Bragantini. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, e noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Buona serata.